chiudiamo con che le cose un po' comunque se fai sesso per 3 ore dopo un po' ti rompi. Chiudiamo con 2 versioni, una breve si chiama Napoli Centrale. Napoli Centrale, divertimento. Non riusciva a camminare quel pullman di turisti, tante auto incolonnate con tanti poveri cristi, non avendo mai visto una zona dubbiosa, ti chiedesti sarà forse manifestazione degli automobilisti? E ne è finito. Poi con coraggio. Poi, e poi l'ultima, che si chiama Ossa di Carne. Ossa di Carne è stata scritta nel 99, chi se ne frega. Però la porto spesso. Le ossa di carne. Ossa di carne, contorno di vene. Venerdì, questa qua è quando ci siamo conosciuti con Marco Borroni. E dopo ci siamo dati un bacetto pure. Ossa di carne. Le ossa di carne, contorno di vene. Venerdì, vede maestà, ma è questa la faccio al delitto. Io lotto, ma spero nel lotto, altrimenti sarà tutto nel libro letto, nel salotto, dopo l'ultimo orgasmo nel letto. La vasta via, la vasta via, le vista sveglia, le vista sveglia. No, è tardi ormai, anzi l'istrice ci comporta con la sua cicatrice. Dice, non si capisce, anzi non si capisce, ma sarei una grande donna se solo avessi la vagina. Gina è donna, dice, dico no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Posa le mani e lei parli con la bocca aperta, e la gracile filigrana si stese in terra incompresa, come questa sequela di lettere A, B, C, fino a Z. Conto fino a 33 e mi addormento. Urla, spazio, spazio, lasciatelo passare, lasciatelo pensare, superficiale, come questa sequela di lettere C, I, A, fino a T, di Toronto, grazie. Sono pronto per lo sbarco in Normandia, dimmi lo sbarco. La prego in ginocchio come fosse Dio, tu sei la vita, tu sei Dio. Cagna dei nuvole rocciose, spraitano sequele, le querelle, troppo più stupide. Cosa? Termina, utili e figli del re. Acquistate coraggio, acquistate coraggio, acquistate coraggio. Quanto costa? Scusi, D, I, O, fino a sé. Addio. Guardatemi.